che ha segnato molto la storia del Novecento italiano, che è la zona di Marghera, e che per me è anche una zona di grande potenza, non solo umana ma anche estetica, questo pianeta appunto appoggiato alle rive della laguna. Però attraverso questo poi diventa anche altro in realtà, il centro poi narrativo e cinematografico del film forse si sposta verso aspetti della vita e rapporti tra la vita e il lavoro che vanno al di là della zona industriale. Ha delle caratteristiche che comunque si allargano anche a livello nazionale per le tematiche, dalla dismissione dei poli industriali alla modificazione della forza lavoro. Sì, sì, certamente non è un'inchiesta su Marghera, è un viaggio dentro a quella zona industriale per capire che cosa c'è in questo mondo oggi nel rapporto tra uomo e macchina, nel rapporto tra uomo e economia globale, nel rapporto tra uomo e industria, nel rapporto tra bisogni e vita, no? Cioè da una parte devi lavorare, devi costruire le macchine, devi avere il petrolio, però dall'altra parte cosa ti rimane in mano. È un po' anche il tema dei grandi movimenti prima in questi anni, e l'ho fatto entrando dentro un luogo che sembra è uno dei simboli della violenza della macchina sull'uomo, e che però c'è ancora quella macchina, c'è ancora quell'industria e ne abbiamo ancora bisogno, quindi che cosa succede alla vita quando è là dentro, no? Quindi come dicevi tu va ben oltre Marghera chiaramente. Andrea, com'era nato il progetto? Nasce come tutti gli altri film da che a un certo punto sento che c'è qualcosa che non so, che c'è qualcosa da scoprire, che c'è qualcosa da chiedere, che c'è qualcosa su cui farsi sorprendere, in cui la realtà ti può aiutare a intuire qualcosa in più, e allora viaggio, c'è una committenza, diciamo. E in questo caso viaggio c'era una scusa, diciamo, che era quella dei 100 anni di Marghera, ecco, erano scorso 100 anni, però il film diciamo, utilizza questo come punto di partenza, ma poi non ne ha bisogno di per senso. E su questa idea ho trovato supporto da parte del cinema, si traduce il Ministero, la tecnica, che per la prima volta ha fatto il pezzo esterno su una produzione cinematografica, e tutto coordinato sempre da Come hai pensato e deciso di entrarci dentro questo mondo e riprenderlo? Anzitutto ho voluto poter entrare veramente dentro, cioè dentro agli impianti produttivi, dentro agli alti forni dell'ENI, dentro la pizzeria dell'ENI, dentro le navi in costruzione, i fincantieri, per essere veramente lì dove c'è il rapporto tra vita e macchina, diciamo. E poi ho chiesto di poterci stare tanto, nel senso un tempo più lungo possibile, affinché tutta la struttura aziendale grossa di protezione e di organizzazione di quei mondi riuscisse un po' a scalfirsi, ad essere meno filtro tra me e le persone che devo raccontare, perché poi immaginare per poter entrare in quel luogo di avere delle autorizzazioni, no, aziendali importanti, importanti, quindi quando all'inizio ero dentro a quei posti le persone essenzialmente pensavano che io fossi un video reporter dell'azienda, insomma, no, una cosa del genere, uno che faceva riprende per l'azienda, perché ero autorizzato dall'azienda a poter stare dentro, ovviamente, quindi riuscire poi a sciogliere questo rapporto e invece entrare in contatto con le vite, con la loro quotidianità, con il loro pensiero, le loro paure, le domande, ci vuole del tempo, non soltanto il tempo permettersi di arrivare a questo. E così sono stato 8-10 giorni dentro la mia costruzione, 8-10 giorni. E sai, 8-10 giorni sono tante ore, e a un certo punto si staccano anche di venire dietro quelli che devono controllare la sicurezza, si inizia a muoverti e a perderti dentro alle navi in costruzione. Ti capita di trovare, cioè nel film, un ragazzo bengalese che mentre lavora canta e diventa un'altra cosa. Al di là del filmato, che impressioni ne hai ricavato? Beh, c'è una grande atomizzazione e solitudine. e dell'essere umano dentro quei mondi in cui l'identità, diciamo, comune, collettiva del lavoratore non c'è più. È il peso dell'economia globale, cioè il padrone che non sta lì a fianco, ma che sta chissà dove, mi rende molto instabile, molto incerto. E quindi c'è questo contrasto enorme tra un posto super materiale, molto materico, ma nello stesso tempo che ti sfugge, che è un po' appunto forse il rapporto tra la vita e l'economia oggi, no? In quante sale sarà? Bello, la distribuzione parte bene, perché se non sbaglio sono circa 35 sale, che per un film documentario è niente male, sì. con un grande dolore perché sotto Roma nessuno lo ha prenotato, però sappiamo che sono film d'autore, cinema documentario al sud fa un po' più fatica, oggettivamente ci sono un po' meno sale che fanno questo lavoro. Ma vabbè, io sono nordico, perché c'è anche una appartenenza etnico territoriale che fluisce. Però bene, Roma, Milano, Genova, Torino, Bologna, Firenze, tanto Veneto ovviamente, ma non solo, anche Pisa, poi dopo partirà più avanti le Marche, sono diverse sale, e ovviamente molta profondità in Veneto, Spezia, Mestre, Treviso, sono dappertutto. Però a Roma abbiamo 3 sale, e a Milano 2, Torino, Genova. È una partenza che mi fa piacere, adesso vediamo che succede. Il pianeta in mare al cinema da giovedì 26 settembre, un saluto e un ringraziamento al regista Andrea Segre. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto Andrea. Grazie a te. Con Stefano Fogliata, protagonista e anima del progetto documentario Footballization di Francesco Furiassi e Francesco Agostini, al cinema da martedì 1 ottobre 2019. Stefano, ben trovato. Eccoci, grazie a voi. Come lo presenteresti a chi ci ascolta? Lo presenterei probabilmente come l'ha presentato un amico quando mi ha fatto un'anteprima, definendolo un documentario semplice, brillante, ma anche malinconico, che ha a che fare appunto con col sottotitolo che contorna un po' tutte le riprese e poi il film che appunto chi non sa come tornare a casa. Che storia è quella raccontata? La storia che raccontiamo all'interno di questo documentario sono 76 minuti che cercano di racchiudere 4 anni di vita, 4 anni di ricerca, ma soprattutto 4 anni di partite di calcio all'interno di un campo profughi, uno di quelli più improbabili all'interno dell'improbabile spettro dei campi profughi in Medio Oriente. E appunto all'interno di questo documentario parliamo in particolare di una squadra, della squadra della Laxa, è una squadra all'interno del campo profughi di Bush Parashmi, attorno a Beirut, composta da calciatori palestinesi, siriani e libanesi. Ed è proprio questa compresenza all'interno di un campo da calcio e poi all'interno del campo profughi più esteso che è appunto il cuore della vicenda del documentario. Come era nato il progetto? Su proposta dei due registi, appunto Francesco Furiassi, che è anche l'autore, e Francesco Agostini, che sono, dopo appunto diverse discussioni su quanto io stessi facendo in Libano, dove ho fatto appunto per 4 anni prima il cooperante e poi soprattutto il ricercatore e tra virgolette calciatore part time, è venuto da una loro proposta, un loro interesse rispetto a questo ambito, quindi è quello di vedere lo sport per la sua questione anche soprattutto sociale, e quindi sono venuti con me la prima volta senza telecamere, senza invasione appunto di questi strumenti video molto invasivi, e li ho accompagnati un po' per vedere quanto di interessante ci fosse all'interno di questo mondo che non è conosciuto nemmeno ai libanesi stessi, perché è un mondo ovviamente che ha a che fare con norme securitarie e pratiche violente che sono appunto molto, molto invasive. Quindi dopo la prima volta ci siamo ritrovati un po' a tavolino sia con i registi che soprattutto con quelli che sono i protagonisti, quindi calciatori, allenatori e presidenti di diverse società, per cercare un po' di definire la trama del documentario, soprattutto i soggetti da intervistare e quelli da non intervistare, perché come tengo spesso a dire è un documentario che rispetto magari a tanti altri che avete visto, è girato sì da italiani, ma a che fare con una collaborazione con la metodologia partecipativa, in cui i protagonisti, quindi chi vedete sullo schermo, non è solo l'intervistatore di turno, ma è una persona che ha portato avanti l'idea del progetto, che quindi si è direttamente interessato a quello che era poi la realizzazione del documentario stesso. Ecco, su cosa avete voluto centrare l'attenzione nel documentario? La mia presenza in realtà è una presenza più da guida che da protagonista, come spesso vengo definito. In realtà poi il documentario ruota attorno a due persone, due calciatori. Un calciatore palestinese nato in Libano, cresciuto in Libano, una delle colonne di questa squadra, che incrocia un po' le proprie traiettorie di vita e di gioco con un altro calciatore, il numero 10. Un palestinese in realtà nato in Siria, che nel 2011, con l'inizio del conflitto siriano, ha dovuto lasciare la Siria, che era il suo paese di esilio, per venire in Libano. Quindi questa appunto, chi non sa come tornare a casa, ha a che fare sia con l'esilio di carattere nazionale, ma soprattutto con quanto significa poi tornare a casa nel quotidiano, quando hai a che fare con l'illegalità, tra virgolette, quando hai a che fare con documenti che non ti riconoscono come una persona umana regolarmente soggiornante sul territorio, e quando hai a che fare con uno status di rifugiato. E proprio per questo, secondo me, è un documentario che vale la pena di guardare, non solo per la pratica specifica e per il contesto specifico libanese o medio orientale, ma perché ha a che fare appunto con tutte queste pratiche di chi non sa come tornare a casa quando non hai nemmeno un documento in mano. A questo proposito, qual è la condizione nei campi profughi in Libano? Dipende ovviamente, come in tante altre realtà sociali marginali, un po' da quella che è il tuo status legale da un lato e un po' quello che è il tuo status socio-economico ovviamente. Diciamo che a livello macro la condizione è notevolmente peggiorata dal punto di vista abitativo e demografico, con l'arrivo dei siriani, ma proprio per una questione di numeri. Fate conto che il campo profughi protagonista del documentario è un campo che negli ultimi 8 anni ha visto un raddoppio della propria popolazione, interamente composta da rifugiati. Quindi se prima si parlava di 20.000 persone, adesso ne abbiamo più di 40.000, con spazi che sono ovviamente sempre più ristretti, con un'architettura che non è l'architettura delle grandi città globali, da un lato. E dall'altro lato, in realtà, ci sono in corso diverse relazioni, anche di natura solidaristica, anche di natura politica, anche di natura sociale, tra gli stessi rifugiati, quindi palestinesi e siriani, all'interno dei campi profughi, che cercano appunto di riuscire ad andare oltre rispetto a questa precarietà, a questa marginalità, e parlare di una squadra di calcio all'interno di questo contesto e anche esemplificare un po' le relazioni non solo conflittuali che sono in corso all'interno dei campi profughi. Stefano, che percorso farà adesso il documentario? Il documentario ha avuto una sua fase che ne abbiamo definito già tante prima promo, una versione non integrale appunto negli scorsi mesi, in pochi cinema e circoli culturali italiani, ma soprattutto con un'amplificazione all'estero. Abbiamo fatto una prima internazionale all'Università di Cambridge, abbiamo girato appunto per il Regno Unito e abbiamo fatto una tournée in Canada. Dopodiché dall'1 settembre, come hai detto giustamente tu, uscirà nelle sale. Ad oggi potete seguire anche sulla pagina Facebook, piuttosto che sulla pagina di Mescalito Film, che è il distributore per l'Italia. Ci sono tra fine settembre, ma soprattutto ottobre, una ventina di sale un po' su tutto il territorio nazionale, con la prospettiva da più a fine anno di allargare il numero delle sale in Italia, e dall'altro lato di portare questo documentario nuovamente all'estero. Abbiamo appunto alcune date di nuovo in Gran Bretagna e soprattutto una data a fine ottobre a Beirut, appunto per riportare un po' non solo noi stessi, ma anche lo stesso film a casa sua. Footballization di Francesco Furiassi e Francesco Agostini, al cinema da martedì 1 ottobre 2019. Un saluto e un ringraziamento al protagonista e anima del progetto, Stefano Fogliata. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille, a presto. Regista Silvio Montanaro sul suo documentario 1968, Gli uccelli, un assalto al cielo mai raccontato, al cinema da giovedì 26 settembre 2019. Silvio, ben trovato. Ben trovato a te e a chi ci ascolta. Lo presenti? È la storia di questo gruppo creativo, direi, che è un gruppo attivo nel 68, che faceva della sana provocazione, quindi gesti eclatanti, l'occupazione della cupola di Sant'Ivo, quella dei Sassi di Matera, quello che era la sua cifra, la sua maniera di operare. Un po' un percorso diverso rispetto a quello che era il mainstream della contestazione del 68. Questa storia che pure ebbe un forte impatto sia per i risultati mediatici e le coperture di stampa, televisiva, delle loro azioni, ma anche perché avevano molti seguaci, poi si è un po' inabissata, cioè con gli anni successivi e con l'emergere della parte più politica della contestazione è stata un po' dimenticata. Ho ritrovato i tre uccelli fondatori e più una serie di seguaci e abbiamo riraccontato questa storia qui. Quello che impressiona subito intanto è la creatività delle loro proposte, delle loro idee, delle loro pratiche. Sì, direi proprio di sì. Loro in qualche maniera combinavano questo impegno politico, perché loro era un impegno politico costante, operavano, con una matrice che invece probabilmente viene dalle avanguardie artistiche, dai surrealisti, dai dadaisti, forse anche dagli stessi futuristi. È come se mettessero l'estetica sulla scena della politica. E un'altra delle filiazioni più o meno riconosciute, perché poi loro diciamo che erano quasi degli spontaneisti, prendevano, si vedevano, erano informati, decidevano cosa volevano fare, prendevano e partivano, lo facevano. Però ci sono le tracce dei situazionisti, dei provost olandesi e in qualche maniera anche del filone beat nelle cose che facevano. Un altro elemento interessante è l'interesse che suscitarono nel mondo intellettuale e artistico, anche di nomi molto conosciuti. Sì, loro avevano questo approccio assolutamente senza soggezione rispetto a quelli che erano gli intellettuali, gli artisti del tempo, artisti essi stessi, alcuni dei quali hanno continuato poi su questa strada. Si presentavano a Zavattini, a Pierpaolo Pasolini, Guttuso diventa un loro amico e finanziatore, Dorazio, Manzù che gli compra un furgone, gli dà 1000 galline che fanno razzolare per architettura per bloccare gli esami, e c'è il cinema, c'è Bellocchio, c'era Marco Ferreri, addirittura i Rolling Stone, più tutta l'avanguardia artistica del tempo, Schifano, Tano Angeli, Festa, insomma, abbiamo un po' tutti, fino a Edoardo De Filippo, insomma, li hanno presi, contattati, conosciuti e interagito, delle volte, voglio dire, con simpatia, con amicizia, delle volte anche creando scompiglio, più di una volta nel caso della Casa di Moravia uscirono articoli che chissà che cosa hanno fatto, avevano, diciamo, un confronto critico anche piuttosto acceso, sempre però all'insegna della creatività, dello sberleffo, dell'ironia. A livello documentale hanno lasciato traccia? Guarda, una delle tracce visive che ancora si può vedere è il graffito che è fuori dalla facoltà di architettura a Valle Giulia, sì. Loro da lì vengono, da architettura, e sulla facciata c'è questo graffito, una persona che va verso un grappolo d'uva e tra le altre cose in questo graffito coinvolgono anche Guttuso, lì la mano, si vede una grossa mano, un viso che stanno in basso nel graffito, è proprio fatta da Guttuso, tant'è che quel graffito non è stato più toccato da nessuno. Che percorso sta facendo il tuo documentario? Guarda, per ora stiamo programmando un po' di proiezioni in giro, iniziamo, abbiamo avuto già un'anteprima al Molise quando ancora il documentario era in fase di costruzione, diciamo un po' ancora rozzo. Adesso abbiamo l'anteprima vera in qualche modo del documentario lì al Nuovo Cinema Aquila il 28, dopodiché abbiamo altri appuntamenti, ce n'è uno che è stato confermato da poco, che sarà la Casa del Cinema l'11 di novembre nell'ambito di una rassegna sul cinema del 68. Stiamo parlando con architettura perché ci piacerebbe molto avere un incontro con gli studenti di oggi, con questi studenti di ieri, in un momento in cui forse è interessante prendere delle ispirazioni di clima non proprio piacevole che c'è in giro, quindi può essere anche interessante e stimolante l'incrocio. Dopodiché, a parte altre richieste anche in giro per l'Italia, diciamo nei cinema, nella parte teatrica della cosa, stiamo cercando di trovare anche uno sbocco in televisione, broadcast, e quindi siamo in trattativa per una vendita. Che reazioni ha suscitato nei diretti interessati il lavoro finito? Ma guarda, sono stati molto contenti, d'altre cose si sono commossi perché sono passati 50 anni e hanno preso strade e percorsi completamente diversi. Andiamo da Capinera, che è stato un po' l'ispiratore, Paolo Ramundo, che adesso anima il Cobrador, che è questa cooperativa agricola che fu occupata nel 77 dai braccianti agricoli organizzati e che quindi in qualche modo, a modo suo, ha seguito un percorso vicino, fino a Paolo Liguori, che noi conosciamo, che è il direttore del TGCOM, quello che una volta era Straccio, che ha preso altra strada completamente. Ritrovarsi, rivedersi, abbiamo foto, filmati dell'epoca, li ha commossi. Diciamo che in qualche modo c'è stata all'inizio una diffidenza, loro non hanno mai raccontato né voluto raccontare quello che avevano fatto, erano rimasti anche anonimi al tempo, insomma non tendevano a scomparire un po' dietro le quinte di quello che facevano, e dopodiché hanno incominciato a appassionarsi in questa cosa e adesso direi che sono contenti. Ecco, proprio in base a questo volevo chiederti anche come è nata questa tua idea, come eri venuto in precedenza a conoscenza della loro realtà, questo insomma. Guarda, la cosa è curiosa perché alcune di quelle cose che ho raccontato nel documentario insieme a Gianni Ramacciotti, che è l'altro autore del documentario, io le ho vissute sulle spalle di uno dei seguaci degli uccelli, dei più attivi, che è Diavolo, Roberto Federici, che è mio cugino. Io avevo 6 anni e ero in questa, ho dei ricordi proprio a flash, insomma, assemblee affollate e fumose. Dopodiché questo è, come dire, un po' navigato come ricordo, racconto, e tutto sommato da me ho anche un passato di simpatia per il situazionismo, per un certo tipo di azione anche nel lontano 77, insomma, mi riecheggiava un po' la storia, ogni tanto provavo a proporre di farne un documentario, una cosa, ma c'era sempre questa sorta di resistenza, no, beh, no, è una storia vecchia e via dicendo. Dopodiché, insomma, c'è stata la congiunzione, c'è stato un capodanno, che è stato il capodanno appunto dal 2017 al 2018, in cui mi hanno detto, guarda, vai a capodanno, Capinera, che appunto era il capo cosiddetto degli uccelli, fa al Cobrador, vai e portati una telecamera. Da lì mi sono fatto vedere, ho cominciato insomma a insinuarmi in questa loro storia con la telecamera e si sono abituati, e da lì è partita la storia. Senti, ci lasci delle indicazioni web per saperne di più sul tuo documentario? Guarda, sì, sicuramente noi abbiamo fatto una pagina facebook.com/1968 gli uccelli, semplicemente. Silvio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie a te e crepi il lupo. Ciao. Il regista Silvio Montanaro sul suo documentario 1968, Gli uccelli, un assalto al cielo mai raccontato, al cinema da giovedì 26 settembre 2019. Con Sabrina Baracetti di Tucker Film per parlare del film Burning, l'amore brucia, di Lee Chang-dong, al cinema da giovedì 19 settembre 2019. Sabrina, ben trovata. Ben trovato a te, a tutti i radioascoltatori. Sono molto contenta di fare questa diretta perché finalmente, dopo più di un anno, siamo riusciti come Tucker Film a portare nelle sale, a partire appunto dal 19 settembre, un film capolavoro che noi vedemmo e di cui ci innamorammo perdutamente proprio a Cannes del 2018. Quindi l'uscita in sala di Burning, l'amore brucia di Chang-dong, colma un po', della sala italiana appunto, colma un po' questo vuoto di premi che proprio a Cannes l'anno scorso aveva visto così uscire un po' testa bassa uno dei più grandi registi del cinema

Ciao, grazie, grazie dell'intervista, grazie. Cos'è questa nuova iniziativa? Allora, io ho ideato questa rassegna, che appunto non è un festival, ma è una scelta di film, cortometraggi, quindi anche lungometraggi, di genere fantastico per far vedere a Roma, ma si spera non solo a Roma, che esiste un cinema un po' nascosto, che però tratta degli argomenti un po' diversi, quindi con dei generi che sono quelli della fantascienza, dell'horror, del grottesco, cinema dark, sperimentale. Quindi scoprire questi talenti italiani che normalmente nelle distribuzioni rimangono un po' nascosti. Ecco, e qui ho dedicato 3 giorni, uno alla fantascienza, uno all'horror e uno al cinema grottesco, dark, chiamiamolo così, ecco. Quanti saranno i lavori presentati? Allora, noi abbiamo una selezione di cortometraggi e lungometraggi. I lungometraggi sono 4. Ho inserito anche un mio film, in realtà, questo spero che mi venga permesso, insomma, come piccola deviazione, ma è sempre un film di fantascienza. E abbiamo invece dei cortometraggi che sono 3 cortometraggi il primo giorno più un lungometraggio, 2 cortometraggi il secondo giorno e 1 il terzo a chiusura. Quindi abbiamo fatto prima i corti e poi i lungometraggi che vanno a chiudere la serata, insomma. È prevista la presenza degli autori e delle autrici, chiaramente. Esattamente, ci sono gli autori, ci sono anche le autrici, perché abbiamo anche una regista, Isabella Noseda, che è una performer, non solo regista, e ci sono i critici di Point Blank, di una rivista online di critica cinematografica, che fanno le domande. Poi, ovviamente, se il pubblico vuole intervenire, vuole partecipare, è benvenuto. Quindi io introdurrò un po' il discorso sul genere, quindi sul fatto che con il genere si può raccontare molto, e poi i critici provvederanno alle loro domande con gli autori. Io volevo appunto il contatto degli autori con il pubblico, ecco, quindi che fosse una cosa vicina e non distante. Quali sono stati i criteri di scelta delle opere? Io ho scelto queste opere ho scelto dei film che avevo in parte già visto, che mi avevano colpito molto. Per esempio, l'anno scorso avevo visto questo film molto interessante di Levi-Sinsky, che si chiama The End, un film di zombie, però mi aveva colpito perché si ritornava a un'atmosfera di cinema come quello che veniva prodotto negli anni 70 e 80, quindi non in modo, diciamo, indipendente, certo, ma comunque un po' più alto, quindi con delle pretese, chiamiamole così, un po' più alte, di arrivare a un pubblico più grande, non solo a un pubblico di nicchia. Mi aveva colpito questo film e l'ho scelto perché mi sembrava molto interessante. Poi c'erano insomma dei piccoli film, per esempio c'è un film che si chiama Stella Strega di Federico Sfascia, che è previsto per domenica, che è un film veramente folle, ispirato ai classici degli anni 80, come Sandrei, a casa e non solo, con degli effetti speciali che lui crea con le sue mani, si fa in modo artigianale, e quindi questo misto di artigianalità, di inventiva, di spirito creativo mi è piaciuto moltissimo, e li ho scelti in base a questi criteri, ecco, sulla creatività, però anche su se c'è un messaggio sotto, quindi un voler dire qualcos'altro, anche questo. Che impressioni hai rispetto al nuova stagione del fantastico italiano? Per il fantastico italiano c'è una, sicuramente, non voglio parlare di rinascita perché è un termine non corretto in questo senso, ma sicuramente c'è una fibrillazione nel cinema indipendente più underground, che non è solo quella dei film fatti in casa, ma si allarga delle produzioni un po' più grandi. Quindi se una volta appunto si potevano trovare i film fatti un po' con gli amici, adesso invece gli artisti indipendenti possono permettersi dei mezzi più grandi e quindi uscire un po' dalla nicchia in cui erano chiusi qualche anno fa, un po' per le rinnovate tecniche digitali, un po' per i servizi di streaming. Per esempio, alcuni di questi film che presentiamo hanno avuto una distribuzione, però diciamo un po' limitata, quindi io volevo comunque che questi autori mi si è data una possibilità nella possibile della nostra rassegna. Quindi c'è una vitalità, però ancora non si è accesa forse quella scintilla che permetterebbe di arrivare a un pubblico più grande.